visto mari, dammi tu l'amore, pescatore sogno e ti domando sì. Con la mano do signori, mi facessi comparire una picciotta bella come mari, e con l'occhi di carboni, venti di sto mari, morti a sti borboni, che si sentono i bacioni di sta terra. Non c'è niente di mangiare, quanto riti aiutato sangue antico di sto mari. Tu l'amore ma trovare. Venci di sto mari, no, no, non mi lasciare. Sogno un pescatore, non m'abbandonare. Venci, venci di sto mari, maledetto amore. Se mangiassero i cani a sti barbari, a sti barbari, burbuni.